Yeah. Io come sento uscito come un lazzo su pragula. In giusto mondo sto tu video, troppi faccio sola. Cavolo parlare ma fanno perdere la pazienza. Cavolo comandare, mannare solo sicari. A chi vi lascia fare, all'altro invece fa zuppari. E poi ci fa sparare, chi lo pari sopra panza. O più mafiosi tutti, chi tu cane vuole scritti. Cane vuole maledetti, cupetite tutte muti. Con gli occhi chiusi, fino un videri malanni. Ma casta malacani, un soparrino picchia avuti. Per già vagliare, caccia lucida la scappa. E voglio camo in chi non sa meglietto non coppa. Quando si sgrippa sta coda rupa rupa. Chi lo cave piccio lo stesso che c'ave cupa. Ora si spruppa tutto chi do che giova. E che non vuole mai cacciare la vecchia panova. Meglietta mala nuova tipo vecchia ma vale. Se ci giova to casa con casci tutti ietta fuori. E poi non dire più netti. Non diamo tenetti. Picchi su uno caccagnate e tumpulati su pridenti. Picchio primo falso sempre più raccomandate. Resta pure due mafioso mi su tocco pugnato. Quali giurica duluri tutto l'anno. Io muri alla muri ma che invici vidu danno. Quali giurica sciavaglio mi salanno. Ora a casa ascoltano con chi di che non ponno. Quali giurica duluri tutto l'anno. Io muri alla muri ma che invici vidu danno. Quali giurica sciavaglio mi salanno. Ora a casa ascoltano con chi di che non ponno. Non c'è più spazio per mia, non c'è più spazio per tia. Nella stana ludia, camunizia e fedenzia. Tu se metti a camurria, sempre stesso figli nudo. Cabone, canciaro, sistema, sanno cudetto. La stanni compare, magari nudo e mezzo freddo. Comanna, catemanna, solo una testa e giarito. Focane, mannera, lasci tagli a facci. E se ti impicci, e tacone, tocca vandera. Caso tutti stessi, politici mafiosi. Con di facci, stocca fisti, mentre nasce siamo persi. In c'è una gerbia con fiume da lusci suoni. Già chi di cora mangia ne chi di che stanno di uni. Già chi di poveraccio pacci senza culuchino. E chi di casse bacia una mano e futuro sgrano. Ma qual è stato cane da travaglia mafia. Ma scangiano per clandestino se ne sciocca tefia. E tutto chi sto gusto e laura separa. Per travagliare fuori da sta nazione che l'ofia. Quali giurica duluri tutto l'anno. Io curi alla muri ma che invici vi danno. Quali giurica travaglio mi salanno. Ora a casa ascoltano con chi di che non ponno. Quali giurica duluri tutto l'anno. Io curi alla muri ma che invici vi danno. Quali giurica travaglio mi salanno. Ora a casa ascoltano con chi di che non ponno. Quali giurica duluri tutto l'anno. Io curi alla muri ma che invici vi danno. Quali giurica travaglio mi salanno. Ora a casa ascoltano con chi di che non ponno.